Io, ancora malato, ancora incazzato, pieno di tali da cui esce una luce. Sono il diavolo conigli, scrivo il tuo sudario. Sulla tua lapide scriverò figlio di puttana col mio sclero. Anarco sclero flow, che il nostro esercito flotteggi e scorreggi su fogli meno pregi di sti porci, dai colletti falsi e di sangue lerci. Vi batterò tutti, da qui vi voglio distrutti, costi quel che costi, anche che la mia macchina salti sotto una bomba di sti figli di troia venduti, e tutti vogliono fare soldi. Star di cosa, non mi potete controllare, non il boss, marci fottuti. Non morite perché lei vi fa felice. Fuori dall'amore il mio territorio, la mia musica, il flow che vi vuole distrutti. Mamma, non voglio morti né morire, ma questa penna scriverà lapidi dentro un cimitero. Battista lirica, la tua è solo posa mimica, la mia arma ritmica, strofa sopra la fogna del fango di sangue, sopra il tuo cadavere infermo, infame costante. Mamma svegliati, mami svegliati, hanno solo infangato la persona sbagliata, hanno sbagliato persona, stare sopra a una bomba, sì. Ancora malato, ancora incazzato, pieno di tagli, da cui esce una luce, sono il diavolo conigli, scrivo il tuo sudario, sulla tua lapide scriverò figlio di puttana col mio sclero, nasco sclero flow, che il nostro esercito flotteggi e scorreggi su fogli meno pregi di sti porci, dai colletti falsi e ho sangue lerci. Vi batterò tutti, da qui vi voglio distrutti, categoria da studio, costi quel che costi, vogliamo i vostri posti, anche che la mia macchina salti sotto una bomba di sti figli di troia venduti. Star di cosa, e tutti vogliono solo fare soldi, non mi potete controllare, non il boss, marci fottuti. Non morite perché lei va felici, fuori dall'amore è il mio territorio, la mia musica è il flow che vi vuole distrutti. Mamma, non voglio morti né morire, ma questa pena